Allora, grazie a Stefano innanzitutto perché ha anche organizzato questa presentazione, grazie a Zazì. E prima di rispondere alla domanda non semplice di Stefano, voglio dire due cose in premessa. Ne avevo pensata una dopo avervi sentito, volevo anche dirne un'altra. Io insegno all'università e il movimento delle tende è stato, è e continua a essere un movimento per cui chiunque sia dentro l'università vi deve ringraziare. Cioè, questo è davvero importante, questa svegliata, questa venire a prendere il sistema e dire, per uscire dal silenzio, penso che sia veramente la cosa più importante per cui vi dobbiamo tutte e tutti ringraziare, e questo ci tenevo a dirlo. La seconda cosa che voglio dire in premessa, la dico non come docente ma come donna, non ci dimentichiamo mai che colonialismo va insieme a patriarcato. La triade malefica di colonialismo, capitalismo e patriarcato è quella che tiene il sistema di produzione in equilibrio. Sono tre sistemi interconnessi, e questo lo dico perché il pinkwashing tremendo che si sta facendo sui corpi nostri, giustificando a giustificazione di un genocidio, il pinkwashing che ha fatto e continua a fare Israele aprendo bandiere arcobaleno sui cadaveri di Gaza o sventolando bandiere finte del femminismo, questo è inaccettabile e noi non lo dobbiamo accettare. Cioè, basta, non è vero. Questa cosa non può essere. La battaglia delle donne per mostrare la violenza sui corpi delle donne nei luoghi di guerra è una battaglia del femminismo, non può essere strumentalizzata per giustificare un genocidio. Grazie. Però è parte di quello che sta accadendo, è parte di quello che già accadeva prima, l'operazione pinkwashing, Israele, stato tutore, avanguardia dei diritti civili, è un'operazione che risale a molto prima del 7 ottobre ed è assolutamente da rifiutare, perché non possiamo chiamare democrazia un posto dove una buona parte della popolazione, una popolazione che viene razzializzata, che viene disumanizzata, è tenuta in uno stato di totale soggezione. Il diritto è un dispositivo coloniale, cioè lo è proprio costitutivamente. Tu prima chiedevi se è un meccanismo perverso quello che abbiamo di fronte agli occhi o è il meccanismo. Il diritto moderno, il diritto internazionale in particolare, nasce con le conquiste coloniali, quindi è un dispositivo coloniale, come ci insegna peraltro la critica postcoloniale, decoloniale dell'altra parte del mondo. Cioè, i giuristi non siamo solo noi, esiste un movimento importante dagli anni 90 che è il movimento dei cosiddetti Third World Approach, l'approccio del terzo mondo, si autochiamano così, al diritto internazionale, ed è quel movimento, perché anche qui storicizzare è importante, per cui oggi chi ha portato Israele di fronte alle corti internazionali è il Sudafrica. Cioè, non siamo noi, è un paese come il Sudafrica che peraltro si è liberato grazie anche alle lotte all'internazionalismo delle lotte, anche questo non va dimenticato, internazionalismo delle lotte che implicava le sanzioni, il boicottaggio accademico, che si è da solo liberato dall'apartheid. Allora dico questo perché mi sembra estremamente importante e perché non è un caso che ciò che abbiamo letto di Luigi Daniele ce lo dica Luigi, napoletano, che sta in Inghilterra. Quei nomi che ci hanno abituato ad ascoltare anche a Radio Onda Rossa o Al Jazeera, Triestino Marinello, uno per tutti, importante docente di diritto internazionale siciliano, dove sta? Insegna in Inghilterra, che non è un gran posto, però reclutano docenti, no, non so, voglio dire l'Inghilterra. Ma perché lo dico questa cosa? Perché purtroppo l'Accademia italiana è stata in questi mesi per la gran parte silenziosa, in particolare l'Accademia dei giuristi, sono poche le eccezioni. Ne dico una perché ci tengo, Alessandra Annoni, che è andata a Rafa in delegazione, peraltro con Manolo, che sarà qui la prossima settimana e insegna a Ferrara. Però Francesca Albanese, che non a caso non è dentro l'Accademia, ma l'Accademia e in particolare le giuriste e i giuristi, ma soprattutto i giuristi, sono quasi tutti uomini, quindi qua possiamo usare tranquillamente un maschile che è maschile, sono stati zitti di fronte allo scempio del genocidio. Cos'è un dispositivo coloniale? Un dispositivo coloniale è un dispositivo ben preciso, no? Abbiamo imparato negli ultimi mesi che in Israele non c'è una guerra tra due entità simmetriche, è una guerra totalmente asimmetrica, perché c'è una potenza occupante, che anche definire potenza occupante è in qualche modo non giuridicamente totalmente corretto, perché l'occupazione ha termine. Il colonialismo non ha termine, non ha un termine in sé. Il dispositivo di colonialismo di insediamento è un dispositivo di apartheid in cui distingui i cittadini dai sudditi. Così si diceva una volta, ma neanche tanto tempo fa. Voi leggevate i manuali di diritto internazionale fino agli anni 50, quindi a Costituzione vigente, e ti spiegavano che i territori coloniali sono quei territori che non sono stati, perché non sono abitati da cittadini ma da aggregati barbari. Ciò li rende terre di nessuno, occupabili, espropriabili e appunto sottoponibili a un regime di eccezione. Eccezionalità nel senso che una legge come quella che vige nei territori occupati di Israele è diversa, vige il codice penale militare per i palestinesi, mentre vige quei bei diritti civili che tanto decantano solo però per chi ha un passaporto israeliano. Di nuovo, due cose, colonialismo e patriarcato, è esattamente questo, no? Svilire le vite altrui per fare cosa? Per fare quell'estrattivismo delle risorse che è anche un estrattivismo sui corpi. Non ci dimentichiamo mai che il confine che non si può più attraversare di Gaza si attraversava per andare a lavorare in Israele, a lavorare privi di diritti, e che i lavoratori palestinesi sono stati deportati a Gaza di nuovo il 7 ottobre senza la possibilità di uscire. Non ci dimentichiamo che appunto l'estrattivismo è un innanzitutto dei corpi, del vivere comunitario e appunto la distruzione delle infrastrutture che sta accadendo a Gaza è distruzione delle infrastrutture, della vita, della cooperazione civile e di queste cose qui. L'ultimo punto, perché sennò la faccio troppo lunga, però ci tenevo a dire, ecco, l'altra cosa la suggeriva Giulia, il diritto è governo dello spazio coloniale significa governo di uno spazio differenziato dal punto di vista della punizione, proprio della punizione che io posso infliggere. Il territorio ci diceva Belardo, ha la radice del terrore, vuol dire ti posso punire. Imporre una giurisdizione su un territorio come la giurisdizione militare significa avere un potere punitivo diversificato a seconda di chi pone in essere le condotte, e questo è esattamente il dispositivo che ci descrive Luigi Daniele e di cui parlava di cui ci leggeva prima Stefano Portelli. Cioè un dispositivo per cui viene meno anche il principio di personalità delle condotte. L'ultima cosa che voglio dire è la guerra interna, cioè c'è una guerra a Gaza. E mi ricollego a questo dispositivo che fa venire meno la personalità delle condotte, che vuol dire che io sono responsabile di ciò che faccio io, non di ciò che fa il gruppo o la nazionalità o l'identità che mi impongono come gabbia, ad esempio quella del fondamentalismo islamico. E quello che sta accadendo qui nella nostra città e sui nostri territori è una sempre più evidente guerra ai migranti e in particolare alle persone di origine arabe. Tre casi di cui tutti abbiamo sentito parlare in questi giorni, in queste settimane, sono quello di Anan, prigioniero palestinese attualmente in carcere all'Aquila, sono quello di Seif, l'educatore algerino che abbiamo visto portare al CPR, e quello di Ali, coinquilino di Anan, questa è la sua colpa, a cui oggi, ce l'ho qui sulle ginocchia, è arrivato il provvedimento, anche in questo caso, di revoca dello status di rifugiato. Non ve lo leggo per non tediarvi. Vi dico solo un passaggio, no, che richiama quello che ci raccontava prima. La Commissione territoriale, oltre naturalmente a parlare di pericolosità sociale sulla base, non pericolosità sociale magari, pericolosità per la sicurezza nazionale, che è un criterio che in questo momento viene letto in maniera asimmetrica tanto quanto la guerra, basta sostenere la causa palestinese e sei immediatamente sospetto. Quindi oltre a questo aspetto c'è anche questo che quasi suscita ilarità, in cui contestano ad Ali il fatto di cercare una vita serena, così dice. Quanto dicono, ma lui ha parlato del problema ai checkpoint, ma in Palestina la sua vita era serena. Così vi lascio, giusto per dire cos'è il dispositivo coloniale, e mi fermo qui, se no andrei avanti.